America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Des Moines in Iowa. Mario Platero, oggi si vota finalmente in America con un elettorato, devo dire, che riprende gli umori populisti europei, sia a destra con il fenomeno di Donald Trump, sia a sinistra dove un socialista come Bernie Sanders insidia Hillary Clinton. Vi farò ascoltare poi alcune registrazioni che ho fatto ieri sera qui a Des Moines ad alcuni dei comizi a cui ho partecipato, soprattutto a quello di Bernie Sanders, che devo dire così si rivela come questo personaggio nuovo, cresciuto dal nulla, in grado di organizzare una campagna grazie a donazioni di $3-5 e con i suoi sostenitori, che poi ieri sera lo hanno presentato prima del suo ultimo comizio, parlando di rivoluzione. È la rivoluzione di Bernie, e Bernie che torna al cittadino, e la rivoluzione popolare contro la politica organizzata, per esempio di Hillary Clinton, perché è ovvio che Bernie Sanders, democratico, sta cercando di strappare, chissà che non ci riesca, la vittoria ai caucus qui dell'Iowa. Bernie Sanders, la sorpresa di queste elezioni del 2016, sono a Des Moines, all'Università di Des Moines, l'ultimo comizio di Sanders, un candidato della sinistra, un candidato che ama definirsi addirittura socialista e che ha fatto storia perché è riuscito a mettere insieme una gran quantità di quattrini, semplicemente raccogliendoli fra persone che gli regalavano $1, $2, $5, $10 e non coi super PACs di cui parlava. Sentitelo. Ecco il suo messaggio per la gente, ed è questa molla che è riuscito in qualche modo a far scattare nell'immaginario collettivo degli Stati Uniti d'America, perché partendo qui dall'Iowa poi è riuscito a creare questo movimento. Pensate, soltanto in Iowa ci sono 15.000 volontari che si mobiliteranno durante le elezioni per cercare di avere il voto. Vi dicevo che sta insidiando Hillary Clinton in modo molto pericoloso per quello che sembrava il candidato imbattibile del Partito Democratico. Sta cambiando l'umore del paese, come Trump ha portato una rivoluzione all'interno del Partito Repubblicano, così lui l'ha portata dentro il Partito Democratico. E a pochi punti percentuali da Hillary, soltanto 3 punti, e chissà, nella notte di lunedì potrebbe, dicono alcuni, anche farcela. Passiamo adesso a Hillary Clinton, introdotta da Bill, dal marito Bill, e dalla figlia, uno schieramento a tutto campo per cercare di contrastare Bernie Sanders. Hillary Clinton è arrivata, Bill Clinton l'ha introdotta, avete sentito l'applauso, devo dire, assordante con cui è stata accolta. Sta parlando in questo momento della nipotina, della figlia di Chelsea che l'aspetta in albergo, e di quello che vuole fare per il futuro di questo paese. Bill Clinton ha detto: beh, noi sappiamo come si rimette a posto l'economia, perché durante la mia presidenza abbiamo avuto il momento di maggiore prosperità per gli Stati Uniti d'America. Detto questo, la corsa per Hillary Clinton resta una corsa difficile. Devo dire che l'energia che percepiamo qui in questa palestra del Lincoln High School è molto buona, molto forte, ma le pressioni di Bernie Sanders ci sono. Ecco, sempre ieri al comizio di Hillary Clinton ho anche incontrato John Podesta, il manager generale della campagna. Sentiamo. Well, I think people in the end of the day will settle down and decide who do I want to be. Ecco, in sostanza Podesta dice: non perderemo mai l'Iowa, vinceremo e vinceremo alla grande. Beh, vedremo come andrà stasera. Ed eccoci all'ultimo appuntamento della serata di ieri. Ne approfitto per darvi anche un quadro delle preferenze. Trump in campo repubblicano conduce col 28%, Cruz al 23%, Rubio al 15%, Ben Carson al 10%. Sono praticamente spariti i governatori: Jeb Bush, ex governatore della Florida, Chris Christie del New Jersey e John Kasich dell'Ohio. In campo democratico Hillary al 45%, Bernie Sanders il 42%, e sentiamo Ted Cruz come appuntamento finale. Ultimo comizio della serata, lunedì il voto, ormai sono le 11 di sera. Ted Cruz, repubblicano senatore del Texas, qui a Des Moines, mentre Donald Trump è a Sioux City. Il suo, in questo capannone poco lontano dalla città, il messaggio di un predicatore evangelista, cerca di conquistare la destra religiosa, i born again Christian, ma la sua è una corsa in salita, perché Donald Trump lo ha davvero spiazzato. Alla fine di questa lunga battaglia elettorale cominciata in maggio qui in Iowa, sono due i candidati che emergono eleggono per queste primarie, per questo caucus, e cioè Hillary Clinton da una parte, certamente molto strutturata nella sua campagna, e Donald Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo ormai all'inizio delle elezioni americane, stanotte avremo i primi risultati dei Radiohead, Electioneering. Da Des Moines è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!